Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Non è la radio che non funziona e non è nemmeno un attacco di UFO, e io non sono Orson Welles nel programma radiofonico La Guerra dei Mondi, che più o meno iniziava così. Io sono Filippo Astone, questa è Fabbrica 2.4, e il brano che avete appena ascoltato in apertura è stato composto da Luciano Berio nel 1957 utilizzando suoni elettronici, e che adesso sono e saranno sempre più i suoni della fabbrica completamente digitalizzata e interconnessa, quella dell'internet delle cose, della fabbrica 4.0, ma anche della manifattura additiva, delle nanotecnologie e di tutte le innovazioni radicali che stanno sconquassando la manifattura mondiale, mettendone anche in discussione gli assetti competitivi, perché oggi la fabbrica è sottoposta a tali cambiamenti che domani non la riconosceremo più. Ecco, di questi argomenti ne parliamo oggi con una persona che li conosce molto bene, Stefano Venturi, che attualmente è il numero uno di HPE Enterprise, perché c'è stata una scissione. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, come siamo messi con la trasformazione digitale delle fabbriche in Italia? Ma allora, l'Italia deve ancora fare tanti passi in questa direzione. C'è tantissima sensibilità sul tema. La buona notizia è che se ne parla tanto e soprattutto in questo momento viene visto come uno dei più importanti temi di trasformazione da parte degli imprenditori. Quindi il senso di urgenza sta arrivando, però c'è ancora tanto da fare. Voi di HP date HPE, solo che ci vuole un po' di tempo per abituarsi a dirlo, date tutta una gamma di prodotti e di servizi. Una delle cose in cui siete più forti riguarda i big data, i software analitici che analizzano e tirano fuori dei significati dall'enorme massa di dati che deriva dalla fabbrica interconnessa. Lo spiego velocemente ai nostri ascoltatori. Il fatto è, la fabbrica totalmente digitale e interconnessa significa che c'è un chip o un telefono digitale o un'etichetta RFID su ogni singolo componente e anche sul prodotto assemblato di questi componenti. Quindi ogni componente dialoga con la fabbrica e dialoga anche dopo che il prodotto in giro per il mondo. Ci sono migliaia, milioni, miliardi di informazioni che vengono trasmesse. Sono necessari per tirare fuori un senso da tutto questo dei software che le aggreghino e le diano una forma, ma anche dei software che tirino fuori i significati più profondi di questi milioni di informazioni che sono i big data. Questi software li fa HP, giusto? Oggi abbiamo a disposizione delle tecnologie di software di analisi di dati non strutturati che tirano fuori informazioni impensabili solo qualche tempo fa. Oggi siamo arrivati al punto di poter prevedere all'interno di una fabbrica quando una certa macchina si guasterà, perché da una serie di segnali deboli che avvengono prima di guasti o prima che la macchina cominci a produrre pezzi fuori dalle tolleranze standard, possiamo anticipare questi fenomeni e intervenire prima, tenendo teso quindi il ciclo industriale, evitando questi continui stop e ripartenza del ciclo industriale. Se ne rendono conto gli amministratori delegati delle aziende manifatturiere italiane? Vedo un'alta sensibilità. Ora, tuttavia, partiamo da un tema un po' brutto per l'Italia. L'Italia è un paese a bassa informatizzazione, c'è poca informatica in Italia. Sì, c'è molta automazione, dicevamo prima di registrare, e poca interconnessione. Esatto, c'è molta automazione. Questa è una buona notizia, perché ci pone rispetto alla media dei paesi manifatturieri sulla fascia alta. Tuttavia non sono ancora interconnesse, o perlomeno non sono interconnesse nella modalità manufacturing 4.0, questa possibilità di inviare milioni, miliardi di dati a questi grandi fratelli, questi grandi software che li analizzano, li correlano sia con eventi che ci sono all'interno della fabbrica, ma sia con eventi che riguardano l'esterno. Ma voi avete partecipato a il CIO Survey, CIO con la I, CIO, che sarebbero responsabili dell'IT, che è una ricerca che fa una società di consulenza, Net Consulting, sponsorizzata da Capgemini, proprio HPE e anche TIM, sulla digital transformation vista dai responsabili dell'IT delle aziende italiane. Allora, il 43% ha già un digital master plan, però la ricerca mette anche in evidenza che non è che proprio se ne occupino gli amministratori delegati, ma è una cosa che nel 51% dei casi viene lasciata in mano al CIO, cioè al responsabile dell'IT, e nel 23% dei casi al marketing. Invece dovrebbe discendere proprio dall'amministratore delegato. Come commenta lei questo dato di fatto? Ah, questo dato che vediamo, che prima cosa è un dato che fa vedere un bicchiere mezzo vuoto, abbondantemente vuoto, tuttavia è in forte crescita rispetto all'anno precedente, quindi c'è una grande dinamica di variazione, questa è la buona notizia. Tornando alla parte del bicchiere mezzo vuoto, questa cosa coincide un po' con la tematica generale italiana della cultura digitale, che in questo paese ha dei gap rispetto ad altri paesi. Siamo un paese a bassa cultura digitale. Il digitale è qualcosa che è entrato poco nelle vite degli italiani e poco soprattutto nei business. Devo dire, ripeto, che ci sono alcuni che fanno da faro rispetto ad altri che la stanno vedendo come un tema importante. Infatti abbiamo una dinamica di crescita molto forte anno su anno dell'interesse. Ci interrompiamo un attimo per gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate con noi. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, avete ancora sentito questi stessi suoni digitali che c'erano anche nella prima parte della trasmissione, sono i suoni di Luciano Berio, erano suoni che il grande compositore ha fatto nel 57 perché voleva evocare il lavoro di un cervello elettronico. Adesso pensate un po', questi sono i suoni della fabbrica e lo sono davvero. Ne stiamo parlando della fabbrica digitalizzata, della fabbrica che diventa sempre più una software house, con uno dei maggiori esperti di queste cose, che è Stefano Venturi, che oggi è il numero uno in Italia di HP Enterprise e poi lo è stato per tanti anni di Cisco. Un'altra cosa che le volevo chiedere è che il vostro CEO, dottor Venturi, ha parlato anche del concetto nel mondo digitale di idea economy, cioè dicendo che grazie a tutte le opportunità manifatturiere digitali la capacità di generare nuovi prodotti e nuove business è altissima, ci sono barriere all'ingresso che sono praticamente zero e il successo dipende dalla capacità di trasformare queste idee in valore. Lei come vede queste affermazioni? Come le commenta? Come le adatta alla realtà italiana? Ma allora, questa è che è stata evocata dalla nostra CEO Meg Whitman è sicuramente riflette quello che è il mondo del digitale oggi, che è sempre più liquido, cioè senza essere chiunque, senza essere una grande corporation, può accedere a degli strumenti prima impensabili a cui potevano accedere solo le grandi corporation. Parlo di grande capacità lavorativa in cloud, ma anche questi software di big data che possono essere fruiti anche in modalità service. Quindi chi oggi ha un'idea, vuol disegnare una tecnologia, un prodotto o qualcosa molto avanzato, può utilizzare in modalità di servizio questi software, la potenza elaborativa, quindi con risorse relativamente limitate, e può superare magari grandi aziende che ci sono sopra, che hanno grandi laboratori, che ci lavorano da anni. E in più, nella parte realizzativa, oggi nel prototyping si può iniziare a usare la stampa 3D che accorcia tutti i tempi di prototyping. Quindi ci sono tutta una serie di possibilità. Cioè, insomma, però la competizione diventa più cattiva anche. Diventa una competizione imprevedibile, perché chi oggi fa qualsiasi tipo di attività, incluso il manifatturiero, che era abbastanza, si era un po' salvato perché dovevi avere le fabbriche, esatto, oggi può trovare dei competitor impensabili a sorpresa, degli oggetti non identificati, degli UFO che saltano fuori all'improvviso. Sento una cosa, lei dovrà anche andare in audizione, no, in Parlamento, per parlare di manifatturiero. Sì, come mai e per dire cosa? Saremo a breve, nelle prossime settimane. Saremo come HP o come American Chamber of Commerce, di cui lei è presidente? Come Hewlett Packard Enterprise. Ah, come Hewlett Packard Enterprise. Sì. E allora, ci dica, è interessantissima questa cosa. Ma a me interessa molto questo tema, quindi ringrazio anche dell'opportunità di essere ascoltato dalla Commissione, perché l'Italia... Quale commissione è? È la commissione che si occupa di industria. Ok. Ok. E quindi l'Italia è oggi il secondo, come diceva lei, paese manifatturiero d'Europa, è il settimo al mondo. Ma pensiamo bene a una cosa: siamo non tanto distanti dalla Germania. Peccato che da prima della crisi la Germania è andata avanti, è passata dal 20 al 22% del PIL. Noi siamo passati dal 20 al 16%. Possiamo invertire questo trend, ritornare a essere un paese che cresce nella manifattura se rendiamo le nostre fabbriche più produttive, più competitive, quindi utilizzare al meglio gli investimenti in asset che ci sono nelle fabbriche, in macchinari, e abbassare il costo del prodotto e soprattutto fare prodotti più innovativi. C'è una grandissima opportunità, il grande lavoro da fare è sulla cultura degli imprenditori, sulla cultura dei manager e dei CIO che si occupano di questo tema. Ma lei è convinto che basti la cultura degli imprenditori e dei manager? Io penso che si tratti anche molto di un problema di politica industriale. L'Industry 4.0, io in tedesco non lo so dire, è stato inventato dalla Germania nell'ambito dell'High Tech Strategy for Germany, che ogni 5 anni viene rivista, e c'è una grandissima attenzione da parte del governo tedesco ai temi della politica industriale, che prevede investimenti, prevede coordinamento, prevede la rete delle Fraunhofer, che fanno quella famosa ricerca precompetitiva che sta tra la ricerca dell'università e la messa in commercio dei prodotti, ed è una ricerca a favore delle imprese. Prevede i Max Planck Institute, che invece fanno la pura ricerca teorica ma già finalizzata, quello che serve alle imprese, e c'è tutta una cintura che avvolge e accompagna l'evoluzione delle aziende, e lo fa con la logica dell'accompagnamento dolce, non con la logica del dirigismo al quale viene collegata dagli stupidi l'idea della politica industriale. E qui da noi tutto questo è nel libro dei sogni. Beh, qui da noi sicuramente non c'è ancora tutto questo. Secondo me bisogna lavorare appunto sui due lati. La cultura è comunque fondamentale, perché in passato comunque gli imprenditori, nel momento in cui hanno realizzato che potevano fare delle cose, hanno automatizzato le loro fabbriche e non gliel'ha detto nessuno. È chiaro che il governo oggi ha una grande opportunità di poter guidare questa strategia. Tra l'altro noi in Germania, lei ha citato il Fraunhofer, sì, con il quale abbiamo collaborato per creare... Cosa avete fatto col Fraunhofer? Una cloud per le manifatture, per le aziende manifatturiere, una grande cloud che si chiama Virtual for Knox, dove si possono elaborare, si può far brokering di capacità tutti i miliardi di dati che arrivano dalle fabbriche senza obbligare l'imprenditore a fare grandi investimenti. Interessantissimo. Ecco, però dobbiamo un attimo capire, per inquadrare nel contesto giusto il nostro interlocutore, che cos'è HPE. Sentite la scheda. Fino a poco tempo fa, Hewlett Packard aveva due primati eccezionali. Era la società di informatica più grande del mondo, con 110 miliardi di dollari di ricavi, cifra che la poneva davanti ai 97 di IBM e ai 78 di Microsoft. Era anche la seconda azienda del settore più antica, essendo nata nel 1939 rispetto al 1880 di IBM. Dopo la scissione in due tronconi, HP Inc. per stampanti e PC, HPE per tutto il resto, rimane una storia antica, e HPE, acronimo di HP Enterprise, con i suoi 53 miliardi di euro di ricavi, scende dal primo al quinto posto mondiale. Hewlett Packard è nata come azienda produttrice di componenti elettronici nel 1939, con un capitale di $538 e un solo prodotto, il 200A Audio Oscillator, ideato dai giovani fondatori Bill Hewlett e David Packard in un piccolo garage di Palo Alto, oggi monumento storico della California e culla della Silicon Valley. Il nuovo generatore di frequenza venne poi scelto dal direttore degli effetti acustici della Disney Studios per il lungometraggio Fantasia. Questo l'esordio brillante dell'azienda, cui seguono decenni di crescita ed espansione in tutto il mondo. Prima della scissione, HP era presente in tutti gli ambiti dell'ITC, cioè software, hardware e servizi. Forniva PC casalinghi, ma anche mega server, servizi aziendali e semplici stampanti. Nel 2015 Hewlett Packard si divide per creare due diverse aziende, HP Inc. e Hewlett Packard Enterprise, quest'ultima focalizzata su servizi e soluzioni per aziende, quotate in borsa dal 2 novembre e guidata a livello globale da Meg Whitman. In Italia, Hewlett Packard Enterprise, guidata da Stefano Venturi, già numero uno di Cisco Italia, ha sedi a Milano, Torino, Padova, Roma e Bari. Dispone di 3 data center in provincia di Pavia, a Cernusco sul Naviglio, e a Pomezia per servizi di disaster recovery, di cloud privato e di outsourcing. Attraverso l'HPA Innovation Center, l'azienda partecipa a oltre 40 progetti di innovazione promossi dall'Unione Europea. Durante lo scorso anno sono stati inseriti in Hewlett Packard Enterprise Italia oltre 100 laureati. Rieccoci in linea dopo la scheda su HPE. Parliamo di fabbriche digitali con Stefano Venturi, che non è solo il numero uno di HPE e già basterebbe, ma è una persona che è protagonista del digitale italiano da anni. Prima dirigeva Cisco, poi anche un ruolo in Asso Lombarda e si è anche preso l'onere della Camera di Commercio americana in Italia. Più che di digital transformation, parlano in America di digital disruption, perché il digitale vuol dire non solo che noi mettiamo sti sensori e compriamo software dell'HP per capire che cosa viene fuori da quei dati, vuol dire che viene radicalmente cambiato il modello di business delle aziende e cambia anche la value proposition, cioè che cosa le aziende vendono al mercato. Si tratta di rimettersi in discussione e forse anche rimettersi in discussione per non morire. Ma dottor Venturi, popolo degli imprenditori che ci ascolta, lei quali istruzioni per l'uso darebbe? Beh, allora, innanzitutto, visto che oggi c'è questa grande opportunità di usare il digitale nella fabbrica, tra l'altro chi non la usa verrà messo ai margini, quindi sì, chi la usa certo. avrà i superpoteri. Beh, allora bisogna cominciare ad affrontare il digitale. Prima cosa è affrontare le infrastrutture IT ibride, farle ibride. Ibride vuol dire che avrò alcuni servizi nella fabbrica, ma alcuni saranno in cloud, ma quindi ci vogliono sistemi aperti, usare standard aperti, prima cosa, usare open standard, non andare a utilizzare tecnologie chiuse. Secondo, la sicurezza, diventando digitali si è esposti ad attacchi cibernetici, certo. E quindi la cyber security è fondamentale. Il terzo, come ho detto, inserire attività di big data, di analisi di big data, sia all'interno della fabbrica dell'azienda, ma sia all'esterno, andare a vedere la supply chain di input, di output e cosa fanno i clienti. E infine automatizzare il più possibile il lavoro delle persone che ci sono sia nella fabbrica che negli uffici. Oggi noi siamo sempre più mobili con i nostri smartphone, però non sempre questo si riflette in maggiore produttività con i sistemi aziendali. Quindi vanno collegate quanto più possibile le app che gli impiegati o gli operai possono usare su dei device in fabbrica o in ufficio a quelli dell'azienda e a quelle centrali. Ecco, io parlerei con lei ancora per ore, ma il tempo è tiranno e per ora dobbiamo chiudere, ma ci ripromettiamo di riprendere il discorso. Ringrazio il dottor Venturi. Grazie. E saluto gli ascoltatori dicendo che domani ci sarà alle 13:15 una puntata da non perdere.